Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati. A tutti voi, cari ascoltatori, un saluto carico di benedizioni. Riprendiamo il nostro appuntamento mensile di lettura degli Atti degli Apostoli sullo sfondo della grande solennità che abbiamo vissuto ieri, dove protagonista era lo Spirito Santo. Ecco, protagonista degli Atti degli Apostoli, questo libro a cui stiamo dedicando mese dopo mese le nostre riflessioni, è proprio lo Spirito Santo, e quest'oggi, questa sera, ci concentreremo su un episodio che è proprio collocato al centro della narrazione degli Atti, ed è quello dell'Assemblea di Gerusalemme. Prima però di iniziare la nostra conversazione, vorrei affidare ciascuno di noi allo Spirito Santo e dedicare questa nostra conversazione soprattutto a coloro che fanno fatica nel loro ruolo educativo. Ho in mente questa sera soprattutto una mamma che oggi mi ha contattato chiedendo tanta forza da parte dello Spirito Santo, perché nel suo ruolo, nel suo servizio educativo, fa proprio fatica ad accompagnare il figlio in un momento molto delicato, soprattutto quando o la ribellione o qualche forma di dipendenza rende tutto più difficile. Allora, cari ascoltatori, stringiamoci anche noi in un'unica preghiera attorno a quei genitori, a quelle mamme, a quei papà che, nonostante i loro sacrifici, nonostante il desiderio di bene, sembrano a volte non vedere i frutti. Preghiamo perché non si stanchino e sentano soprattutto la solidarietà della nostra preghiera. Bene, lasciamoci ora illuminare dalla parola di Dio. Per quanti hanno la possibilità di farlo, invito a prendere in mano un'edizione della Bibbia e dei Vangeli ed aprirla al capitolo 15 degli Atti degli Apostoli. Come sapete, come anche abbiamo visto la volta scorsa, questo capitolo si colloca dopo il primo grande viaggio missionario di Paolo e Barnaba, un viaggio che è stato caratterizzato dall'apertura decisa della Chiesa delle origini al mondo pagano. Tutto sembrava andare bene, al di là di alcuni incidenti di percorso, alcune persecuzioni che gli apostoli stavano vivendo. Tornando ad Antiochia, abbiamo visto che hanno radunato la Chiesa annunciando tutto ciò che Dio aveva compiuto per mezzo loro e come aveva aperto ai pagani la porta della fede. Però, ecco, nel momento della gioia, ecco che succede qualcosa che questa volta arriva direttamente dalla Chiesa Madre, dalla Chiesa di Gerusalemme, e che turba i cuori di tutti. Non è certamente un caso che l'Evangelista Luca abbia posto questo episodio al centro della sua narrazione. Siamo in un momento che fa da spartiacque e che porta la Chiesa delle origini a prendere una decisione importante. Ancora una volta vedremo, protagonista sarà lo Spirito Santo più che la discussione degli apostoli, questo Spirito che assiste nella fase di discernimento e dà le luci necessarie per le scelte da compiere. Ma ascoltiamo il testo, cominciando a leggere i versetti dall'1 al 5 del capitolo 15. Ora, alcuni scesi dalla Giudea insegnavano ai fratelli: se non vi fate circoncidere secondo l'usanza di Mosè, non potete essere salvati. Nacque un conflitto e una discussione vivace di Paolo e Barnaba contro di loro. Perciò si stabilì che Paolo e Barnaba, con alcuni altri, salissero a Gerusalemme dagli apostoli e dagli anziani per trattare la controversia. Essi dunque, provvisti del necessario dalla Chiesa, attraversarono la Fenice e la Samaria, raccontando la conversione dei pagani e suscitando grande gioia in tutti i fratelli. Giunti a Gerusalemme, furono accolti dalla Chiesa, dagli apostoli e dagli anziani, e narrarono quanto Dio aveva fatto per mezzo di loro. Allora si alzarono alcuni della setta dei farisei che avevano aderito alla fede, dicendo: bisogna circoncidersi e imporre loro di osservare la legge di Mosè. Ecco, alla fine del primo viaggio missionario, stando alla versione di Luca, si verifica questo episodio. Ad Antiochia giungono alcuni fratelli, niente meno che dalla Chiesa Madre, quindi dalla Chiesa che ha un'autorevolezza sulle chiese nate successivamente, imponendo una sorta di verdetto, di editto: se non vi fate circoncidere secondo l'usanza di Mosè, non potete essere salvati. In altre parole, i pagani non possono aderire decisamente, non possono aderire direttamente a Cristo. Prima di aderire a Cristo, prima di diventare cristiani, secondo questi giudei che vengono da Gerusalemme, devono passare per la legge di Mosè e soprattutto per la circoncisione. Ovviamente questa scelta, questa decisione, non era una decisione secondaria o banale, e lo capiamo da come viene impostata l'espressione usata da questi giudei, che dicono: se non vi fate circoncidere non potete essere salvati. In altre parole, la salvezza passa dall'osservanza della legge e dall'osservanza della circoncisione. Paolo e Barnaba, ci dice il testo, si oppongono con decisione a questo, perché la salvezza non può passare dall'osservanza dell'uomo. La salvezza è un dono di Dio, e questo dono di Dio si manifesta nella gratuità dell'amore di Cristo. Quindi i pagani, stando a Paolo e Barnaba, possono aderire alla fede senza passare dalla circoncisione e dall'osservanza della legge, perché non è il merito, non è la bontà dell'uomo a salvarlo, ma è l'accoglienza di un amore che lo precede, l'accoglienza dell'amore di Dio che si manifesta in pienezza in Gesù Cristo. Ecco, questi cinque versetti sono costruiti anche in modo molto attento dal narratore Luca. Sappiamo che Luca è un abile narratore, possiede gli strumenti anche letterari per narrare con attenzione quello che succede. Bene, questi primi cinque versetti sono costruiti in forma, come dire, concentrica, a mo' di piramide, potremmo dire. L'inizio e la fine ci presenta quelli che sono gli oppositori di Paolo e Barnaba. All'inizio ci dice che sono dei giudei che provengono da Gerusalemme, alla fine si dice che questi giudei sono i farisei che avevano aderito alla fede, quindi alcuni particolarmente legati alla legge, che impongono le loro decisioni. Poi, un pochino più all'interno di questa piramide, ci viene detta la decisione, cioè viene deciso che Paolo e Barnaba si confrontino con gli apostoli e gli anziani. Anche questo è molto bello, perché ci fa capire come all'interno della Chiesa delle origini le decisioni non venivano prese da una sola persona. Cioè, Pietro era la figura di riferimento, ma Pietro fin dall'inizio aveva impostato la conduzione della Chiesa alla luce di un discernimento condiviso che coinvolgeva gli apostoli e insieme agli apostoli anche gli anziani, coloro che all'interno dell'esperienza delle origini avevano, come dire, più esperienza del cammino della Chiesa e del discepolato di Gesù. Quindi nella parte più interna troviamo questo aspetto, viene ribadito come desiderio all'inizio e come cosa che si realizza alla fine. Al centro cosa troviamo? Il vertice cosa troviamo? Troviamo Paolo e Barnaba che approfittano del viaggio a Gerusalemme per continuare il loro annuncio. E la prova che il Signore è con loro dove sta? La prova sta nel fatto che tutto è accompagnato da grande gioia in tutti i fratelli. È interessante, l'elemento che caratterizza fin dall'inizio la Chiesa è l'elemento della gioia. Questa gioia che produce l'attenzione, la stima da parte di coloro che conoscono indirettamente l'esperienza cristiana e che sono attirati dall'annuncio, sono sempre attirati dalla gioia che traspare. E questa gioia si traduce poi in conversione. Mi sembra questa anche una bella riflessione che commenta la Ibrani che la liturgia di oggi ci propone. La lettera di Giacomo proprio stamattina faceva notare la differenza tra lo spirito del male e lo Spirito Santo. Lo spirito del male, diceva Giacomo con la schiettezza che lo caratterizza, è sempre caratterizzato da spirito di gelosia amara, interessante l'amarezza che accompagna la gelosia, e lo spirito di contesa. E Giacomo dice ai fedeli della sua comunità: se dentro di voi avete lo spirito di contesa, lo spirito di litigiosità, non pensate di essere guidati dallo Spirito di Dio. C'è un diavolo, siete guidati da qualcosa di diabolico, perché laddove c'è lo Spirito di Dio, i sentimenti interiori sono diversi, e i sentimenti interiori che vengono menzionati sono la pace, la gioia, l'arrendevolezza, l'amitezza e quel frutto di giustizia che viene seminato per coloro che cercano la pace. Bene, Paolo e Barnaba in questo testo sono proprio persone guidate dallo Spirito di Dio, e è ciò che emerge, il loro passaggio, il loro racconto non solo consolida e conforta i fratelli della Fenice e della Samaria, ma suscita grande gioia in tutti i fratelli. Oggi, la liturgia di oggi conferma tra l'altro il racconto di Giacomo, la lettera di Giacomo, con il salmo responsoriale, dove dice che la legge del Signore rinfranca l'anima, dà luce agli occhi e infonde pace nel cuore. Anche qua gli elementi che caratterizzano l'azione dello Spirito sono l'essere rinforzati, la luminosità della vita e la gioia interiore. Quindi stessi elementi che proprio ritroviamo all'inizio di questa pagina degli Atti degli Apostoli. Quindi Paolo e Barnaba, di fronte a una controversia che capiscono essere una controversia molto delicata e molto importante per la comunità delle origini, decidono di scegliere la via del confronto e non scendono a Gerusalemme da soli, scendono Paolo, Barnaba con alcuni altri, in modo che anche in questo caso il discernimento è condiviso. Quindi troviamo due gruppi che si confrontano, da una parte il gruppo della Chiesa Madre di Gerusalemme, che è rappresentata dagli apostoli e dagli anziani, dall'altra il gruppo della Chiesa missionaria, fra virgolette, se così la possiamo definire, la Chiesa missionaria di Antiochia, che manda Paolo e Barnaba come suoi rappresentanti con alcuni altri. Questi si recano a Gerusalemme portando il frutto, si può dire, del loro viaggio missionario, del primo viaggio missionario. Ora, va detto che Luca ha lasciato ben trasparire lungo il primo viaggio missionario che non tutto è così semplice. Avevamo notato nel corso di quel viaggio come l'annuncio ai pagani richiedesse comunque delle attenzioni da parte dei primi missionari del Vangelo, perché non è che uno da un certo stile di vita passa a un altro in modo automatico, c'è una sorta di pedagogia. Però Luca aveva anche mostrato come Paolo e Barnaba sanno, guidati dallo Spirito, vivere e adottare questa pedagogia nei confronti di coloro che aderivano alla fede. Lasciamo ora un breve spazio musicale prima di vedere cosa succede nell'assemblea di Gerusalemme, un'assemblea dove prenderanno la parola in ordine prima Pietro, poi Paolo e Barnaba, poi Giacomo, mostrando anche questa capacità di ascolto vicendevole all'interno della prima comunità, che è condizione per un autentico discernimento guidato dallo Spirito. Ma lasciamo un breve stacco musicale in modo che ciascuno di voi possa rileggere i primi 5 versetti di questo capitolo 15. Quindi Paolo e Barnaba scendono a Gerusalemme. Cosa succede una volta che arrivano a Gerusalemme? Come dicevamo prima, prendono la parola in modo distinto, prima Pietro, poi Paolo e Barnaba, poi Giacomo, ma ascoltiamo anche in questo caso il testo in modo che poi entriamo un pochino nei dettagli del dibattito che si viene a creare a Gerusalemme. Si radunarono allora gli apostoli e gli anziani per esaminare la questione. Sorta una grande discussione, Pietro si alzò e disse loro: «Fratelli, voi sapete che fin dai tempi antichi Dio ha scelto tra voi che per bocca mia i pagani ascoltassero la parola del Vangelo e venissero alla fede. E Dio, che conosce i cuori, ha reso testimonianza in loro favore, dando loro lo Spirito Santo come a noi, e non ha fatto alcuna distinzione tra noi e loro, purificando con la fede i loro cuori. Ora, perché tentate Dio imponendo sul collo dei discepoli un giogo che né i nostri padri né noi siamo stati capaci di portare? Noi crediamo di avere la salvezza per la grazia del Signore Gesù, e questo vale anche per loro». Il primo a intervenire quindi è Pietro. Notiamo come i toni, una volta che Barnaba e Paolo arrivano a Gerusalemme, si fanno accesi. Al versetto 2 era stato detto che era nato un conflitto e una discussione vivace di Paolo e Barnaba contro di loro, contro questi emissari giunti da Gerusalemme. Alla lettera dovremmo tradurre: nasce un conflitto e una discussione non piccola di Paolo e Barnaba contro di loro. Ora questa discussione non piccola diventa una discussione grande, grande discussione. Il testo greco fa notare proprio questa differenza, in modo da far capire che gli animi si accendono in modo forte. E il primo a intervenire è Pietro, lo notiamo anche dalla gestualità, Pietro si alza per parlare. Questo vuol dire che si deve in qualche modo un pochino imporre di fronte a un clima che è acceso, è caratterizzato da una discussione molto animata. E Pietro fa il suo intervento assumendo su di sé la responsabilità dell'annuncio ai pagani. Dice: «Fratelli, voi sapete che fin dai tempi antichi Dio ha scelto tra voi che per bocca mia i pagani ascoltassero la parola del Vangelo e venissero alla fede». Cioè, Pietro, come rappresentante morale di tutta la comunità cristiana, assume su di sé la responsabilità facendo memoria di quello che è successo ed è stato narrato al capitolo 10 degli Atti degli Apostoli, quando Pietro fu inviato dallo Spirito nella casa di Cornelio. In quel caso avvenne quello che qui viene narrato: Dio, che conosce i cuori, ha reso testimonianza in loro favore, dando loro lo Spirito Santo come a noi. Già allora questa cosa aveva suscitato tensione nella chiesa di Gerusalemme, perché il capitolo 11 ci narrava che quando Pietro torna a Gerusalemme i fratelli non è che gli vanno attorno incontro applaudendo quello che Pietro ha fatto, ma vogliono avere spiegazioni: come mai è stato in casa di pagani e ha mangiato con loro? E lì Pietro deve dare testimonianza che aveva solo iniziato a portare l'annuncio del Vangelo quando lo Spirito ha interrotto il suo discorso ed è sceso sui pagani, proprio come all'inizio era sceso su coloro che erano radunati nel cenacolo, quindi gli undici, le donne e i fratelli di Gesù insieme a Maria. Stessa cosa è avvenuta con i pagani. E quindi Pietro dà ora testimonianza di questo, e accanto a questa testimonianza precisa che è la fede che purifica i loro cuori, non l'osservanza della legge. E noi crediamo di avere la salvezza per la grazia del Signore Gesù, non per la circoncisione. Quindi quello che Pietro sottolinea è l'importanza di avere ben chiaro da dove passa la salvezza. La salvezza passa per la grazia di Cristo e i cuori vengono purificati non dall'osservanza ma dalla fede. Mentre quello che è stato annunciato da questi giudei che vengono da Gerusalemme e che vogliono imporre la circoncisione viene riletto da Pietro come una tentazione. Perché tentate Dio imponendo un giogo che né i nostri padri né noi siamo stati capaci di portare? La legge nella cultura ebraica era vista come un giogo leggero, un giogo che serve, come dire, per crescere l'uomo, però anche un giogo impegnativo che nessun uomo è in grado di portare. Ora Pietro precisa tutto questo dicendo che se la legge è un giogo, la grazia che viene da Cristo è l'unica via che ci permette di rivivere il mistero del discepolato e della figliolanza di Dio. A questo punto tacque tutta l'assemblea, ci dice il testo, e ascoltavano Barnaba e Paolo che raccontavano quali segni e prodigi aveva fatto il Signore tra i pagani per mezzo loro. Notate, Pietro prende la parola, si alza in piedi, dopo che Pietro ha terminato prendono la parola Barnaba e Paolo e la parola di Barnaba e Paolo è raccontare i segni, i prodigi che il Signore ha fatto tra i pagani per mezzo loro. In altre parole, segni concreti del passaggio dello Spirito Santo. Torniamo alla liturgia di ieri. Il racconto di Atti 2 che ci presenta la scena della Pentecoste e ci dice anche di che cosa parlavano gli apostoli dopo aver ricevuto lo Spirito Santo. E dice, raccontavano a tutti le grandi meraviglie del Signore. Il luogo della presenza dello Spirito è caratterizzato dal racconto delle meraviglie dei, i grandi prodigi del Signore, un racconto che è carico di gioia e di gratitudine. Quanto è preziosa all'interno delle nostre comunità questa tipologia di racconto. Questa tipologia di racconto è quella che ci permette di custodire, di tenere vivo quel senso spirituale, quella sensibilità alle cose di Dio che altrimenti smarriamo. Anche nelle nostre comunità c'è spesso il rischio di discutere di tutto, di discutere di progetti, di discutere di problemi amministrativi, di discutere di cose da fare, dimenticando però di raccontarci le grandi opere di Dio. Non si riesce a volte a capire come mai abbiamo quel senso di, come dire, di timidezza, di riservatezza nel parlare delle cose di Dio. Quando sono proprio queste cose di Dio che aiutano ciascuno a rinforzare la propria fede e a notare come lo Spirito non è presente solo dentro di sé, ma è presente anche attorno a sé. Vedere Dio dentro di noi, attorno a noi, è il segno più bello di un cammino nello Spirito ed è il modo migliore per discernere anche dove lo Spirito vuole condurre. Ecco allora l'azione di Barnaba e Paolo, che non tengono un discorso di difesa, no, dicono semplicemente quello che è successo nelle loro visite a Listra, a Iconio, a Derbe, cioè tutti quei luoghi dove loro sono passati, iniziando da Antiochia, da quella chiesa che li aveva inviati, non per, come dire, per un pallino personale, ma perché lo Spirito aveva detto riservate per me Paolo e Barnaba per l'opera a cui li ho destinati. Hanno pregato, hanno digiunato e poi li hanno inviati. Quindi era sempre l'azione dello Spirito che agiva dentro di loro. Ora Paolo e Barnaba sentono il bisogno di raccontare questo, poi sarà la Chiesa a discernere, sarà la Chiesa a valutare le cose. Quindi prima ha parlato Pietro, poi Barnaba e Paolo, il racconto continua dicendo che una volta che Paolo e Barnaba hanno terminato il loro discorso, ecco che prende la parola colui che ora è il responsabile della Chiesa Madre di Gerusalemme, cioè Giacomo. Sappiamo infatti che dopo aver rischiato la morte, Pietro dovette lasciare quella città, eh? Quindi la Chiesa di Gerusalemme passò poi sotto la guida di Giacomo. Giacomo, che guidava la Chiesa di Gerusalemme, non era uno dei 12 apostoli, non è né Giacomo il maggiore, che ha già perso la vita, e nemmeno Giacomo il minore. È un altro Giacomo, che probabilmente era parente di Gesù, tanto che viene chiamato appunto fratello del Signore, apparteneva alla parentela di Gesù e che con molta probabilità, stando alla tradizione, si è convertito dopo la risurrezione di Gesù ed era molto vicino agli ambienti del Tempio. Questo gli permise anche di tutelare in tempo di crisi e di persecuzione, fino a un certo punto almeno, la Chiesa Madre di Gerusalemme. Quindi, come continua il testo? Quando essi finirono di parlare, Giacomo prese la parola e disse: «Fratelli, ascoltatemi. Simeone ha narrato come all'inizio Dio ha avuto cura di scegliersi tra i pagani un popolo consacrato al suo nome. E con ciò concordano le parole dei profeti, come sta scritto: dopo questo ritornerò e ricostruirò la tenda di David che è caduta, e ricostruirò le sue rovine e la raddrizzerò, affinché cerchino il Signore anche gli altri uomini e tutte le nazioni sulle quali è stato pronunciato il mio nome, dice il Signore che fa queste cose note da tempo. Perciò ritengo che non si debbano importunare coloro che dal paganesimo si sono convertiti a Dio, ma si prescriva loro di astenersi dal contaminarsi con gli idoli, dalle unioni illegittime, dagli animali soffocati e dal sangue. Mosè infatti fin dalle antiche generazioni a chi lo predica in ogni città, poiché viene letto ogni sabato nelle sinagoghe». Cerchiamo di capire cosa dice Giacomo. Giacomo lascia parlare Barnaba e Paolo, poi prende la parola e richiama una citazione antico testamentaria, è la citazione di Amos al capitolo 9, i versetti da 11 a 12, e praticamente vede nella chiamata alla fede dei pagani la realizzazione dei tempi messianici, la ricostruzione, se volete, del nuovo popolo di Dio. Ecco, cerca nel suo discorso Giacomo di fare un'opera di mediazione. Praticamente fa capire che l'adesione dei pagani alla fede non va contro il popolo ebraico, ma realizza ciò che il popolo ebraico attendeva, cioè viene costruita, rialzata l'antica tenda di Davide e i popoli pagani entrano in essa. Entrano in essa, però, a questo punto Giacomo deve dire, non è il caso però di chiedere a queste persone la circoncisione. Chiediamo alcune cose di base, alcune osservanze di base. Perché vengono chieste alcune osservanze di base che adesso vediamo? Perché senza queste garanzie, il pio ebreo non potrebbe stare con il pagano che ha aderito alla fede. Vengono chieste quattro condizioni. Le condizioni sono: astenersi dal contaminarsi con gli idoli, cioè non andare ai templi pagani a offrire sacrifici agli idoli. Questo era per certi aspetti evidente. Se uno aveva aderito a Cristo, non saliva più al tempio a sacrificare agli idoli. Però cosa poteva succedere? Poteva succedere che andava al tempio a comprare, perché magari costava di meno, perché magari era abituato a far così, continuava a salire al tempio pagano a comprare la carne. Perché cosa succedeva nei templi pagani? Tanta carne veniva offerta agli idoli, ma poi questa carne non è che la potevano mangiare tutti i sacerdoti. Veniva messa e venduta sul mercato, ma come era possibile, come dire, se uno aveva aderito all'unico Dio, se uno aveva aderito al Cristo, mangiare la carne che era offerta agli idoli era come aderire ancora all'idolatria. Quindi la garanzia che Giacomo chiede è: attenzione, non contaminatevi con gli idoli, cioè non comprate più, non solo non andate a sacrificare i templi pagani, ma questo era evidente che se uno aveva diritto a Cristo non lo faceva più, ma non comprate ciò che è stato sacrificato agli idoli. Secondo, tenetevi lontani dalle unioni illegittime. Cosa sono le unioni illegittime? Erano soprattutto le unioni incestuose, secondo almeno una linea interpretativa, cioè quelle unioni tra consanguinei che erano aborrite all'interno della cultura ebraica e non solo della cultura ebraica. Terzo, astenetevi dagli animali soffocati, cioè attenzione a come macellate gli animali. Gli animali non possono essere uccisi semplicemente con un colpo al collo, no, il sangue deve essere restituito alla terra, perché il sangue è la vita e la vita non appartiene all'uomo, quindi l'uomo non può mangiare la carne dell'animale se questo non è stato macellato bene, è un segno di rispetto nei confronti della creazione, non possiamo carpire la vita di un altro essere creato da Dio, il sangue va restituito alla terra. Ecco perché dice astenersi dagli animali soffocati e ovviamente dal sangue, cioè non va bevuto il sangue di questi animali. E poi conclude dicendo, Mosè fin dalle antiche generazioni ha chi lo predica in ogni città, poiché viene letto ogni sabato nelle sinagoghe. Gli interpreti leggono questa espressione nel senso di queste quattro condizioni non sono delle condizioni gravose, perché tutti coloro che hanno un minimo contatto con gli ebrei sanno che sono i principi base predicati in tutte le sinagoghe, quindi non dovrebbe essere una cosa gravosa nemmeno per i pagani. Quindi notate, Giacomo interviene ponendo come condizione per risolvere l'inghippo quattro criteri di base, dicendo, ok, non chiediamo la circoncisione, non imponiamo il giogo di tutta la legge, chiediamo però alcune condizioni di base, in modo che la convivenza tra pagani convertiti al cristianesimo ed ebrei convertiti al cristianesimo sia più semplice. La via di mediazione di Giacomo alla fine vedremo che sarà accolta. Quello che però mi interessa notare è vedere come i tre rappresentanti principali, Pietro, Paolo e Barnaba e Giacomo, ognuno dal proprio punto di vista sanno portare un contributo propositivo e costruttivo alla discussione, cioè non si limitano a far nascere la discussione e ad alimentare le tensioni, ma cercano di proporre una via risolutiva, ognuno dal suo punto di vista. Pietro, assumendosi la responsabilità dell'apertura al mondo pagano e sottolineando che la salvezza viene da Cristo, quindi ponendo l'elemento teologico al centro, Paolo e Barnaba mostrando i frutti, dicendo bene, ma alla luce di questi frutti, suscitati dallo Spirito, che ha detto mettete da parte, riservate per me Paolo e Barnaba l'opera a cui li ho destinati, cosa portano, dove ci devono portare? E Giacomo dicendo, ok, però dobbiamo anche salvaguardare la convivenza di queste due comunità in un momento non facile per la Chiesa Madre di Gerusalemme, quindi proporrei questa soluzione, quindi tre punti di vista distinti, ma tutti nell'unica direzione, cioè tre modi di vedere diversi, che però puntano tutti all'unica direzione, che è quella dello Spirito di Dio, ecco, grazie a questo si riesce ad arrivare a una soluzione. Il testo continua dicendo, gli apostoli, gli anziani e tutta la Chiesa decisero di eleggere alcuni tra loro e inviarli ad Antiochia con Paolo e Barnaba. Giuda, chiamato Barsabba e Sila, uomini tenuti in grande considerazione tra i fratelli. Quindi